mi negli occhi e prendi la mia anima. Forse sto cadendo e ho voglia di ridere. Stavo naufragando, ridevo sempre di più. Vorrei toccarti fra mille miglia di vuoto, vuoto. Stanno uccidendo il mare e noi li lasciamo fare. L'indifferenza è comoda, l'ipocrisia peste. Peste, peste, e comincia la festa. Peste, peste, mosche intorno alla testa. Quanta gente in festa! Peste, peste, mosche intorno alla testa. Guardami negli occhi e prendi la mia anima. Forse sto morendo e rido sempre di più. Vorrei toccarti fra mille miglia di vuoto, vuoto. Stanno uccidendo il mare e noi li lasciamo fare. L'indifferenza è comoda, l'ipocrisia peste. Peste, peste, e comincia la festa. Peste, peste, mosche intorno alla testa. Peste, peste, quanta gente in festa. Peste, peste, mosche intorno alla testa.